Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi piace vedere dall'alto le cose che ho scoperto esistere solo leggendo una rivista o una guida turistica. L'estuario paludoso di un fiume, un vecchio forte coloniale abbandonato, aeroporti lontani, vulcani e crateri lasciati dai meteoriti. La mia vera passione, però, sono i relitti. Mi chiamo Andrea, abito a Milano, ho quasi 49 anni, sono architetto libero professionista e in fase di separazione, sono infatti proprio in fase di separazione. Non diciamolo, cioè sei proprio in fase di separazione, Andrea, però stai su, anche perché tra meno di un mese, al martedì 19 giugno, cioè non so se ti può realmente aiutare, però martedì 19 giugno alle 21, esattamente come lo scorso anno, c'è un finale di stagione per Voi Siete Qui ed è l'evento live che si tiene qui a Radio 24 nella Sala Collina in via Monterosa 91. L'evento è gratuito, è alle 21 e di fatto ripercorreremo alcune tra le puntate sono andate in onda, le rileggerò, ci saranno probabilmente, speriamo, tutti quelli che hanno scritto che vengano via Monterosa 91 a Milano. Per prenotarsi all'evento live c'è un modo che è online da questa mattina: non mandate mail, non scrivete messaggi su Facebook, è un modo molto più semplice, andate sul sito di Radio 24 e guardate, lo faccio anch'io in questo momento perché di fatto è la prima volta che lo vedo come si fa. Andate sul sito ed eccolo qua, andate in fondo alla pagina, c'è un piccolo boxino di Voi Siete Qui con quella splendida foto quella bella polo rossa che non mi tolgo più dal sito della radio. Voi Siete Qui live 19 giugno ore 21 presso Radio 24 a Milano, registrati subito, ci cliccate sopra e si apre quello che tecnicamente è chiamato form, è di fatto una pagina con degli spazi già pronti dove dovete inserire il nome, il cognome, Matteo Caccia. Poi se avete già scritto, nelle memorie del vostro computer rimane in memoria il vostro nome. Provincia. No, Macerata no. Provincia Milano, eccolo qua. Email, inserite l'email, sesso maschio, telefono. Ma telefono fisso o cellulare? Questo si può mettere finto il telefono, no? Se mi sente Luisa del marketing mi taglia la gola, però il telefono mettetelo finto, lo metto anch'io. 340-999-99999, questo è il mio cellulare. Data di nascita, forse potete mentire anche qui. No. Sulla data di nascita no. Professione, seleziona la professione. Vabbè, ci sono tutte quello che fate. E poi ancora, appuntamento di... E poi c'è questo spazio straordinario. Potete scegliere tra i vostri programmi preferiti di Radio 24, oltre a Voi Siete Qui, immagino, no? Giusto? Oppure li facciamo cliccare ancora su Voi Siete Qui? No, Tiziano, diamo per scontato che gli piaccia se sono qui. Quindi... programma preferito 1 e c'è tutto l'elenco: Essere Avere, Essere Benessere, Ferry Boat, Focus Economia, Gazzettino 2015, La Guardiana del Faro, La Zanzara, Letture, Non ci sono mezze stagioni, Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Abbiamo questo programma in radio, la domenica mattina, lo fa Margherita! Lo facevi, Margherita. Vabbè, insomma, stringiamo, compilate tutto, lettera informativa, dai consenso e poi si prega di compilare, stampare e firmare questa pagina. Una volta stampata, premere invio per completare la registrazione. L'accesso alla sala sarà consentito previa consegna di questa scheda compilata, ogni nostra parte firma. Quindi, dopo averla compilata, la inviate, prima la stampate, la inviate e di fatto questo è il vostro biglietto omaggio per entrare alla serata. Portate questa pagina, la firmate perché ci serve la firma e voilà, il gioco è fatto alle 21 di martedì 19 giugno 2012. Vi ricordo ancora, dal sito di Radio 24 andate in fondo alla pagina e c'è il boxino con il form di Voi Siete Qui, il tutto sempre per martedì 19 giugno. Oggi però si parla di altro, non si parla solo del live, perché il racconto che ci è arrivato, il racconto di Andrea, è un racconto molto delicato che non ha un episodio vero e proprio e parla di guardare la terra dall'alto. Volare sul mondo con Google Earth è il mio gioco per l'anima preferito. Ci passo molto tempo quando posso. Spesso lo preferisco alla TV. vado alla scoperta di luoghi sconosciuti che mi piacerebbe vedere ma che probabilmente non vedrò mai, perché sono troppo lontani, troppo difficili da raggiungere, oppure proibiti da visitare. Mi piace vedere dall'alto le cose che ho scoperto esistere solo leggendo una rivista o una guida turistica. L'estuario paludoso di un fiume, un vecchio forte coloniale abbandonato, aeroporti, vulcani e crateri lasciati dai meteoriti. Ho scoperto Google Earth circa sei anni e mezzo fa, e per me è stata un'illuminazione, perché è diventato uno dei miei passatempi preferiti. Con Google Earth riesco a vedere delle cose che ho già visto, ma soprattutto riesco a vedere delle cose che forse non vedrò mai, perché sono troppo difficili da raggiungere, troppo lontane, forse anche proibite. La mia vera passione però sono i relitti. Relitti di navi spiaggiate, relitti di navi che affierano dall'acqua, relitti di navi abbandonati in qualche baia lontana, in attesa di essere demoliti. Ogni relitto ha una sua storia, storia di speranze, di tragedie, di atti coraggiosi e di guerre sanguinose. Mi piace l'idea che rimarranno per sempre visibili, congelati nella memoria di un server, anche quando le onde o la mano dell'uomo li avranno consumati e fatti a pezzi. Guardare la terra dall'alto è un piacere, un grande piacere. A volte però è un coltello che riapre vecchie ferite. Guardare i luoghi che ho visitato e che forse non rivedrò mai più. Rivedere dall'alto i posti nei quali sono stato felice anche solo per un giorno. Rivedere angoli di mondo che non saranno più gli stessi la prima volta che ci andrò mi mette molta tristezza, eppure continuo a farlo. Da quando poi Google Earth è sceso sulla Terra e ha incominciato a girare la città sul tetto di una macchina, ho scoperto con grande piacere tante piccole cose che mi hanno fatto sorridere. L'amico barista davanti alla vetrina del suo locale sotto casa mia. Impossibile non riconoscerlo con quell'orribile borsello che porta sempre a tracolla. E poi delicati particolari architettonici di palazzi che non avevo mai notato, neppure passandoci davanti tutti i giorni. Oppure scoprire che in Germania chi non desidera che il proprio balcone o le proprie finestre siano visibili chiede e ottiene una pecetta che sgrana l'immagine rendendola irriconoscibile. Anche questo strumento però a volte è foriero di nostalgie, come quando ho rivisto la mia macchina nel posto dove ero solito lasciarla alla mattina andando al lavoro e che una sera non ho più trovato. Oppure quando vedo che certi angoli di città che conoscevo da bambino non sono più gli stessi, demoliti e sostituiti da nuovi edifici, magari più belli, ma che non hanno nulla a che fare con la mia infanzia. Ho provato anche a riguardare vecchie foto, ma non è la stessa cosa, perché quelle foto le ho scattate io, nel modo in cui io volevo vedere alcuni luoghi o angoli di città. No, guardare le mie foto non è lo stesso. Non è così come guardare Google Earth. Così come non è lo stesso andare a visitarli, quei luoghi. Cosa che non faccio perché mi sembrerebbe stupido. E allora fingo di essere troppo impegnato per ripassare davanti alla casa in cui ho vissuto da studente o la piazza in cui ho baciato la mia fidanzata a 16 anni. Sono nato a Milano e in questi anni ho visto Milano cambiare. Quello che mi piace di Google Earth è che in certo qual modo congela delle situazioni. Purtroppo però quelle foto scattate dal tetto di un'auto mi porta sempre lì, davanti al numero 278. Davanti a quel portone da cui sono uscito una mattina e nel quale non sono mai più rientrato, dopo che Paola mi disse che non voleva più condividere la sua vita con la mia. Chissà che cosa pensano i gestori di Google quando vedono che quasi ogni giorno c'è un utente che si ferma a guardare un palazzo qualsiasi in un viale di Piacenza. Ho amato moltissimo il racconto di Andrea. Mi è piaciuto anche se non racconta una storia, anche se non c'è un episodio vero e proprio. O forse sì. Forse l'episodio c'è, però è nascosto. Un po' come quel trucco che dice che per non fare vedere una cosa devi metterla bene in evidenza. A rileggerlo, il racconto di Andrea fa questo. Parla per tutto il tempo del suo passatempo preferito. Guardare la terra dall'alto e poi entrarci grazie agli strumenti di Google. Racconta di estuari di fiumi, relitti di navi. Ma poi va sempre a finire lì, in quel viale di Piacenza che è talmente evidente che sembra nascosto. Mi è piaciuto molto per questo motivo, ma anche perché pure a me piace guardare la terra dall'alto. Guardare tutte le cose da una distanza verticale sembra ti permetta di misurarle, quasi te le rende familiari. C'è una tecnica fotografica che usano alcuni fotografi, ma che mi pare di aver visto recentemente anche in qualche pubblicità. Si chiama fuoco selettivo. È un modo per fotografare alcuni oggetti in mezzo a tanti altri e lasciare fuori fuoco quello che non ti interessa. Questa tecnica, che non so assolutamente come funzioni, ha un effetto incredibile, soprattutto sui panorami o sulle città fotografate dall'alto. Rende tutto quello che ha fuoco simile a un giocattolo. Lo rende finto, irreale, quasi plastificato. Che si tratti di persone, automobili o camion, qualsiasi cosa sia messo a fuoco selettivamente rispetto a tutto il resto, sembra finto. Ecco, ogni tanto vorrei riuscire a modulare il mio sguardo sulle cose intorno a me, nello stesso modo in cui i fotografi usano l'obiettivo o l'otturatore della macchina fotografica per ottenere quel risultato. Le cose sembrano meno spaventose, viste dall'alto. Come se fossero finte, appunto. Sembrano maneggiabili. Quando ci arrivi vicino, invece, tutto diventa gigantesco. L'ho capito di recente, quando sono andato a vivere in una casa a un piano alto. Io ho sempre vissuto ai piani bassi. La casa dove sono cresciuto e dove ancora vivono i miei è la tipica villetta a un piano e mezzo della provincia settentrionale di questo paese. Quando mi sono trasferito a Milano, tutte le case, non lo so perché, ma tutte le case in cui sono stato, anche per brevi periodi, erano al piano terra. Tutto al più all'ammezzato. Da qualche mese invece vivo in una casa al quarto piano. Non c'è ascensore, quindi tocca farsi 4 rampe di scala a piedi, con le borse della spesa e le valigie di quando si parte e quelle di quando si torna. E con la sposa in braccio, quando la sposerò. In questa casa al quarto piano c'è più luce delle altre, c'è più silenzio e più intimità. E poi dalla finestra della camera da letto si vede la città lì sotto. Ecco, guardare la città dal quarto piano non è come guardarla da terra. Non ci sei dentro, ci sei sopra. E tutte le cose, tutto il mondo sembra più bello dall'alto, sembra più ordinato, più facile da guardare addirittura, più facile da capire. Le persone che passano, le macchine che si muovono, che parcheggiano, sembrano essere tutte nel posto giusto e sembrano fare tutte la cosa giusta. Le cose viste dall'alto hanno una luce diversa, di giorno, ma anche di notte, con i lampioni che le illuminano. Non sono migliori, sembrano più comprensibili. Quando ho bisogno di capire, spengo le luci in casa e mi affaccio alla finestra della camera, dalla mia casa al quarto piano sopra Milano. La vita, vista da questa prospettiva, sembra un po' più facile. Wednesday, the evening, the mess with us. L'abbiamo chiesto già da ieri di fare questo piccolo gioco che avete fatto sia sul profilo Facebook sia via email, ed è di caricare la foto di un luogo che amate o a cui tenete particolarmente vista dall'alto. Ne sono arrivate diverse e più tardi ve le racconto. 349-238-6666 se avete voglia di intervenire sulla puntata di oggi, anche se è difficile caricare SMS, immagini via SMS, o se volete raccontarle in 140 caratteri, oppure semplicemente se volete mandare i soliti messaggi fuori contesto. Rimaniamo invece in contesto e stiamo a Milano, andiamo direttamente da Andrea. Pronto Andrea? Ciao. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Molto bene. Una bella giornata. Ah, una bella giornata di sole. Beh, ti stai tirando su da solo, Andrea, oppure... No, devo dire che apprezzo quando ci sono delle giornate così calde, senza nuvole. Che lavoro fai, Andrea? Sei architetto? Sono architetto, sì. Ma quindi hai uno studio tuo o lavori per Io altri? Io ho uno studio mio. E come va? È dura. Passiamo alla domanda di riserva. È tanto dura da quanto? È tanto dura da un... anno e mezzo, 2 anni. Ma tanto dura che passiamo oltre o che bisogna cambiare? Non vorrei mai cambiare, perché il mio è il mestiere più bello del mondo, perché mette in concreto le idee, costruisce in solido le idee, quindi è veramente Non potendo fare il pittore, perché non sapendo dipingere, mi piace fare l'architetto, non lo cambierei mai. Spero di non dover cambiare mai. Ma cosa fai? Interni, esterni, no, urbanista? Faccio esterni, sì. Faccio architettura civile. Senti, veniamo invece a questa passione. Mi fa ridere quando dici ci passo tutto il tempo che posso, addirittura lo preferisco alla TV. Cioè vuol dire che almeno una volta al giorno lo fai di guardare la terra dall'alto? Almeno... sì, almeno una volta, almeno due, almeno tre, quando mi viene in mente un posto che ho visto, che voglio rivedere, quando mi viene in mente un posto che non ho visto e che forse vedrò, e soprattutto quando mi viene in mente un posto che non ho mai visto e forse non vedrò mai. Senti, ma ad esempio i relitti, li trovi andando così a volo d'angelo sul mare, oppure conosci dei luoghi? No, perché quello dei relitti piace anche a me, ammetto, però non riesco a capire come fai a trovarli. Allora, ci sono dei luoghi del mondo, come ad esempio la baia di Chittagong in Bangladesh, dove si sa che le navi vanno a morire. Ah, certo, è quel posto dove le smontano, giusto? Esatto. Poi c'è un altro posto in Mauritania dove la gente abbandona le navi e se ne va. Ma scusami, ma tu come li conosci questi posti dove la gente abbandona? Perché io ho preso una passione sfrenata per i relitti delle navi. Ah, ok. Ma c'è un sito dove cercare per i relitti? C'è... ci sono stati degli spin-off da Google Earth, ci sono stati degli spin-off e ci sono dei siti GeoHex che ognuno ha la sua tematica, gli aeroporti, le dighe, e poi ce n'è uno che parla di relitti, e quindi chi ne trova uno, ci sono dei luoghi deputati, la costa degli scheletri piuttosto che la Patagonia, dove ci sono molte navi. I luoghi della seconda guerra mondiale ci sono cose. Qual è stato l'ultimo viaggio che ti sei fatto con Google Earth, intendo? Ah, con l'ultimo viaggio che con Google Earth mi sono andato a vedere i vulcani della Kamchatka. Perché prendo spunto dai canali tematici. O da Risico, anche perché la Kamchatka era uno dei posti più infami del Risico. Io invado la Kamchatka. Senti, ti è mai capita? Te lo chiedo perché io l'ho vista settimana scorsa. La macchina che va in giro con la telecamera per le strade. No, non l'ho mai vista. Guarda, è una roba praticamente. Tipo una Seat Ibiza, credo che fosse, tutta con chiaramente tutti i loghi del caso, e sul tetto ha una specie di palla, non l'ho vista bene da vicino e non ho capito se ha diverse videocamere che fotografano istantaneamente o se fa una sorta di 360, però ti dico, quando l'ho vista, perché vabbè, come al solito non c'è moltissimo da fare nella mia giornata, l'ho seguita per un paio di vie ed è stato abbastanza divertente. Niente, forse questa non dovevo dirla perché è abbastanza imbarazzante. Senti, invece, Andrea, qual è il prossimo viaggio che farai vero e proprio? Il prossimo viaggio che farò vero e proprio credo in Oriente, da qualche parte in Oriente. Ok, senti, però il 19 di giugno vieni al live? Credo proprio di sì. Ok, perfetto. Ore 21, vai sul form. Ho spiegato, sei capito quando l'ho spiegato prima? O come al solito non sei capito niente? Sì, sei capito molto bene. Ti ringrazio Andrea, buona giornata, in bocca al lupo. Anche a te. Ciao, grazie mille. 349-238-6666, o se volete postare qualche foto del mondo visto dall'alto, voi siete qui, @radio24.it. Voi siete qui. Se è un autoscatto, quello di Andrea è fatto veramente bene. C'è una specie di piccolo corridoio illuminato, e la foto è scattata da una stanza buia. Si vede la cornice della porta, questo piccolo spazio, che è più uno sgabuzzino più che un corridoio. E Andrea è adagiato con un fare da a metà tra il playboy e il killer assoldato, con un completo grigio e una camicia bianca, mollemente adagiato alla parete di un muro. È una bella foto, però andate a vederla sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, da cui vi potete scaricare anche i podcast del programma. Tutti i giorni trovate le ultime 5 puntate, lo potete scaricare da lì, dalla sezione podcast, oppure da iTunes abbonandovi gratuitamente. E dal sito, vi ripeto, avete sempre il form per prenotarvi per il live di Voi Siete Qui il 19 giugno alle 21. In fondo alla pagina trovate il mio faccione con questa polo rossa inguardabile, ci cliccate sopra e vi si apre lo spazio dedicato alle prenotazioni. 349-238-6666. Qualcuno mi scrive: l'ho vista ieri a Brescia, ma non capisco cosa. La macchina di bravo, ecco cosa, la macchina di Google, evidentemente è nei dintorni. E poi ancora a proposito della terra vista dall'alto, dal quarto piano della mia casa di Parma, quando la mia fidanzata e il cane vanno a dormire, fumo l'ultima sigaretta al buio guardando fuori e una luce diversa sembra ad una luce diversa sembra che ogni cosa venga da un altro pianeta. Il gioco però di oggi è un altro, vi ho chiesto di postare delle foto su Facebook o di mandarmele via email della terra vista dall'alto, dei luoghi che preferite visti dall'alto, e questi sono i racconti di queste immagini. La prima foto è quella di un posto che sembra quasi desertico, ci sono cespugli bassissimi, quindi evidentemente è un posto caldo, e c'è proprio al centro del link che mi ha mandato una casa bianca col tetto basso. È un posto nel Mediterraneo, è un posto per forza nel Mediterraneo, bisogna allargare, però non mi pare ci sia il mare, e invece no, c'è il mare, questo posto qua, lo leggo di fianco, è Tarragona in Spagna. E poi ancora, wow, questo è un fiume enorme che ha un'estensione in ampiezza proprio larghissimo, la foto è molto molto lontano, ci sono campi verdi tutto intorno, alberi che sembrano veramente minuscoli, quindi ripeto, il luogo è, il fiume deve essere davvero grande, devo recuperare, eccolo qua, Riccardo, fiume Canas in Cina, provincia autonoma dello Xinjiang, al crocevia tra Cina, Russia, Mongolia, Kazakistan, io lo chiamo quando il mondo era giovane, spero di andarci un giorno, facendo il mio anelato viaggio in Mongolia, sui monti Altai, a cavallo nella taiga, con relativo wild camping dove capita. E questa è una foto invece presa da un aereo, perché si vede l'ala di un aereo ed è la montagna, queste sono le Alpi, non si possono riconoscerle, anche perché c'è ci sono delle scritte, c'è una marea di neve, il cielo è azzurrissimo e c'è una traccia rossa che credo sia un'arrampicata, cioè qualcuno che ha fatto da qui a là. E per l'esattezza dal rifugio Quintino Sella, 2640 metri, al Monviso, 3841 metri. E ancora, questa è una foto, non c'è riferimento per questa foto, è la allargo per capire cos'è, c'è una casa in mezzo a uno spiazzo d'erba con delle strade bianche che gli arrivano, deve essere estate perché la luce è caldissima, parliamo di Google Earth sempre, allargo perché ci sono nuvole, non si capisce, un lago, due laghi, tre laghi, questo è il Trentino. Questo è il Trentino, metto la mappa, questo è il Trentino, voilà, Trento, Merano, per l'esattezza vicino a Rumo, lago di Cles, un altro nome se qualcuno lo conosce che leggo è Sfruz. E ancora, andiamo avanti, questa invece è molto riconoscibile perché l'abbiamo vista di recente proprio in TV, e la manda Maria. Solo da domenica ho capito qual è il posto che amo, e lo ammetto, prima non lo pensavo, forse solo perché mi sembrava scontato. E la foto è una foto dall'alto di Finale Emilia, la Rocca Estense. In bocca al lupo a tutti quelli che ci sono. Andiamo avanti ancora, perché questa è la foto di una baia, però non capisco dove siamo, questa è l'Italia secondo me, queste sono delle campagna, vediamo se c'è il riferimento, il riferimento è Campi Flegrei, eccolo qua Alessandro, dove ho abitato per 5 anni, qualsiasi struttura circolare è ciò che rimane di un vulcano, ed effettivamente se guardate questa foto, andate a vederla dal Facebook del programma, ci sono una, due, cioè tutta una baia chiaramente, dei porti, strisce di barche sull'acqua, e ci sono invece questi crateri che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono una decina di crateri vulcanici. E andiamo invece alle ultime due foto che sono arrivate, le carico poi sul profilo, sono arrivate via mail. Una foto è scattata da un aereo, da un piccolo aereo, ora non ho la mail sott'occhio, però la persona che me l'ha mandata è una donna che mi ha scritto, questa foto è la foce di un fiume, siamo in Adriatico, ci sono delle barriere frangiflutti, c'è un piccolo faro, sabbia ovunque e acqua azzurra, ma la cosa interessante è che dice che è stata scattata dall'ultraleggero del marito che si è schiantato dopo pochi giorni da questa foto, ma fortunatamente dice la storia è finita bene. E l'ultima foto di oggi è la più suggestiva in assoluto, la foto più bella, devo dire, che sia arrivata. Non è da Google Earth, c'è un deserto rossissimo, ci sono quattro piramidi, delle persone che girano intorno. Le piramidi sono quasi distrutte e vi devo leggere per forza la mail che è arrivata, perché rende tutto ancora più interessante. Ecco un luogo mitico, Meroe nell'antica Nubia, patria dei cosiddetti faraoni neri, oggi Sudan. Avevo visto molte foto di queste splendide piramidi nel deserto, in realtà una necropoli della civiltà meroitica, coeva dell'impero romano, ma allora non avrei mai pensato di poterci volare sopra con un aquilone. E invece è successo. Di lavoro faccio proprio il fotografo aereo per l'archeologia e mi diverto un mondo. La cosa divertente però è che io non ho mai volato. Per fare queste foto aeree faccio volare la macchina fotografica che scatta da sola. Per farlo uso gli aquiloni e un piccolo pallone aerostatico e poi vedo cosa è rimasto impresso nella memoria digitale e su centinaia di scatti trovo quasi sempre quello giusto. È incredibile e sorprendente quello che può vedere un occhio digitale a soli 40 metri dal suolo. Profilo Twitter del programma, che è VSQR24, è arrivata una foto bellissima che è il lago di Garda visto dall'alto. Credo che sia proprio l'Alto Garda, dalle parti di Torbole e Riva del Garda. Se volete continuare questo gioco, continuate a farlo sul profilo Facebook del programma. Matteo Caccia, io sono qui, le foto del mondo visto dall'alto, o dei luoghi che preferite visti dall'alto. La puntata di domani è una puntata davvero speciale, perché per la prima volta la persona che è autrice del racconto sarà ospite in studio. Quella persona si chiama Matilde, ha 13 anni e domani è in diretta dagli studi qua di Radio 24. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era quella di Andrea e parlava della terra vista dall'alto. Quella di domani è la storia di Matilde e parla dell'essere fratelli. Mio padre e mia madre hanno deciso di separarsi e fra le mani, perché fosse per me il meno traumatico possibile, mi hanno messo un piccolo libro intitolato Non è colpa tua. Non ero traumatizzata, ma la cosa che più mi faceva stare male era l'idea di non avere fratelli o sorelle da amare.